Sottotiro. Sottotiro. Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno. Ci occupiamo di storie che si incrociano con altre storie, storie di vita che denunciano storie di morte. Un filo comune, la violenza, la criminalità organizzata, l'andrangheta, che non è più soltanto, ormai lo scrivo da anni, una questione calabrese né tantomeno italiana, ma una questione internazionale. Quando ce ne renderemo conto sarà probabilmente troppo tardi. Perché dico vite che si incrociano con la morte? Perché un'iniziativa straordinaria del Museo dell'Andrangheta ha dato vita a due volumi a mani libere, di cui abbiamo parlato nel recente passato, in cui degli studenti giovani, giovanissimi, si raccontano, ma raccontano soprattutto delle storie che non bisogna dimenticare. E questo lo dice anche Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Procura di Reggio Calabria. Sentite cosa dice. Questo è anche un libro che racconta il vissuto di tante persone, storie di dolore che non bisogna dimenticare. È importante il recupero della memoria, è importante ricordare ciò che è stato fatto, il sacrificio di chi ha creduto e ha lottato contro le mafie. La conoscenza è un'arma importante e i giovani rappresentano un patrimonio di idee e di speranze. Allora, io chiedo ad Alessandro Lombardo, al quale do il benvenuto, che è uno studente universitario all'Università di Cosenza, che storia ha raccontato lui. Buongiorno Lombardo. Buongiorno, buongiorno Roberto. Allora, io ho raccontato la storia di un giovane, un mio coetaneo, una persona qualunque, quindi una storia qualunque, non le solite storie complicate sui magistrati. Una persona semplice della mia età, che si trovava un giorno per caso a passeggiare nel viale della nostra villa nel paesino di Cittanova, nella provincia di Reggio Calabria. Allora, sai, di solito ci stanno i soliti incensurati, persone di 30 anni, 40 anni che escono per dare fastidio agli altri. Quel giorno purtroppo capitò a lui questo incontro con queste persone e hanno avuto una semplice discussione. Dopodiché il giovane, per reagire alle provocazioni di queste persone, alzò le mani, rispose più che altro a queste persone e si trovò tutto pestato. Tornando a casa, il padre si armò di fucile e andarono a trovare questi due giovani. Alla fine di questa triste storia abbiamo un giovane in carcere, che è il giovane che ha aggredito il ragazzo, un altro ferito, il padre ferito, e il povero ragazzo della mia età è morto. Quello che era stato pestato. Sì, e io ho concluso il mio racconto dicendo che non è stato ucciso dall'avversario, diciamo, che l'ha sparato. Secondo me è stato ucciso dal padre stesso, che per vendicarsi ha avuto il coraggio di portare il figlio con sé e di andare a... non lo so, a minacciare quelle persone, sai, quest'area che abbiamo noi altri calabresi, queste persone che si sentono coinvolte in, certo, questo meccanismo, certo, in questo circolo vizioso. In questo circolo, bravo, in questo circolo vizioso, in questa cultura di morte. Ecco, ma ti chiedo, sei giovane anche tu, come lo era il tuo coetaneo ucciso, ma questo circuito di morte, questa cultura, diciamo così, di non vita, continua tra voi giovani oppure sta cambiando qualcosa? Vorrei che tu lanciassi, se possibile, un segnale di speranza, ma ti chiedo di essere sincero. Sì, allora, onestamente, già l'impegno che noi studenti abbiamo assunto nel portare a termine questa iniziativa, il libro e tutte queste cose, magari all'inizio siamo partiti con la solita scusa, sai, di perdere un'ora di lezione e stare in giro con altri ragazzi della nostra età, ma quando noi abbiamo concluso tutto questo percorso, Io in prima persona e anche tutti gli altri miei colleghi, ci abbiamo creduto veramente a tutte le cose che abbiamo fatto e siamo giunti alla conclusione che veramente qualcosa può cambiare qui nel nostro territorio. Guarda, non queste... solo nel nostro territorio, certo, perché si dirama ovunque. Oltre a questa conclusione, cioè, io sono convintissimo che le cose possono cambiare, perché non ne possiamo più, non abbiamo voglia di vedere spacciare droga e pensare che i nostri figli muoiano con quella droga, o di spacciare armi e pensare fare che i nostri figli vengano uccisi da quelle stesse armi che noi o altri al nostro posto spacciano. Perciò tutto questo meccanismo penso finisca, non ti dico presto, ma un giorno sono convinto che finirà, perché se nient'altro finiranno le persone con questa mentalità. Allora guarda, quello che tu dici è bellissimo, devo dirti senza alcuna retorica, chi mi segue da anni lo sa perfettamente, le cose che dici mi commuovono, ma davvero lo dico, perché era anche la speranza di un grande servitore dello Stato che voi avete avuto a Reggio Calabria, che si chiama Luigi De Sena, superprefetto, il quale diceva che a suo giudizio passeranno generazioni, ma alla fine la Calabria può farcela, perché nelle vostre mani il vostro futuro. Quindi io dico grazie a te, lo dico a tutte le scuole che con voi hanno partecipato a questa iniziativa, ai vostri presidi, ai vostri professori, perché queste sono cose molto più importanti di 100 inchieste antimafia. Nei giovani è il futuro di questo benedetto / maledetto paese che è l'Italia, e la Calabria è soltanto un'area purtroppo cancerogena di questo paese, ma è un'area che ha gli anticorpi giusti, come lo avete dimostrato voi giovani, per reagire. Grazie al tuo intervento, quindi noi continueremo a seguirvi. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Laura Fagini in studio, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.